Salve a tutti. Dunque, dirò qualche parola di introduzione e poi lascerò subito la parola ai nostri relatori e ospiti di oggi. Il libro che presentiamo, come sapete, è Monete, Impero, Economia e Finanza dal 1890 al 1914, un'opera di De Cecco, Marcello De Cecco, ripubblicato da Donzelli in una nuova edizione e anche traduzione curate da Alfredo Giglio Bianco, che abbiamo qui con noi. E si tratta, come scrive lo stesso Giglio Bianco, di un vero e proprio classico della letteratura storico-economica. E credo io un'opera anche in grado di fornirci elementi preziosi rispetto a una serie di questioni dell'oggi. La scelta di Giglio Bianco è molto significativa. Giglio Bianco mantiene il titolo dell'edizione del 74 e del 79, una italiana e l'altra inglese, che era Moneta e Impero, e riprende come sottotitolo quello della versione del 1971. Non si tratta però, ci spiega il curatore, soltanto di una scelta legata al titolo, in quanto la sua intenzione è quella di avvicinarsi maggiormente al pensiero di De Cecco, migliorandone anche le versioni precedenti, nel caso della traduzione italiana inadeguata, nel caso delle due versioni inglesi spesso tagliate, ci spiega, dagli stessi editor inglesi, al fine di rendere questo volume meno ostico per quel pubblico. Si tratta di un libro che rappresenta anche un fedele specchio del pensiero di De Cecco, che come sapete è stato uno dei più grandi storici ed economisti del Novecento. De Cecco qui compie un'opera di critica, di demitizzazione del gold standard. Se infatti la maggior parte degli economisti ha considerato il gold standard come un'età dell'oro, una sorta di mito, un sistema naturale basato sul libero interagire dei mercati senza nessun ruolo per l'intervento pubblico, De Cecco spiega che esso in realtà non funzionò in questo modo. E piuttosto ci spiega come il gold standard fu piuttosto appunto una creazione umana. Una delle politiche scelte dall'Inghilterra per mantenere la propria supremazia e volte a favorire determinati interessi sociali. In questo senso il gold standard è stato un prodotto dell'impero britannico, un sistema fondato sulla struttura delle relazioni economiche e politiche sia all'interno sia all'esterno dell'Inghilterra, quindi anche rispetto alle colonie. Come credo vedremo, centrale è non a caso il titolo e il nesso, ci spiega sempre Giglio Bianco, tra moneta, la moneta, e il senso giuridico dello stesso termine impero. Termine appunto che risente di una certa temperie intellettuale, quella antiimperialista degli stessi anni in cui scriveva De Cecco. Nello sviluppo storico dell'analisi di De Cecco vengono svelati i paradossi del gold standard, divenuto, come sapete, un sistema universale per aumentare i controlli statali sulle questioni monetarie. In questo senso si tratta di uno studio pionieristico sulle conseguenze della seconda rivoluzione industriale sul potere europeo, di un'analisi dei mutamenti egemonici e dei rapporti di forza di un'epoca che vide il consolidamento di economie e sistemi politici antagonisti al Regno Unito, su tutti Germania e Stati Uniti. Un momento storico in cui, peraltro, il mercato finanziario internazionale conobbe un forte sviluppo che portò poi alla crisi del 1907, seguita dall'istituzione della Federal Reserve e dalla crescita dei nazionalismi fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ora, qual è la tesi centrale di De Cecco? Appunto, nella questa opera di demitizzazione, io credo che ci aiuti anche a capire una serie di problemi insorti dall'ultima crisi del 2008. Cioè, ci aiuta a vedere come dietro ciò che si considera naturale, risultato automatico dei comportamenti individuali, vi siano in realtà scelte ben precise, scelte di natura in primis politica. In questo senso il gold standard fu una costruzione dello Stato inglese, allo stesso tempo potremmo dire che fu una finzione, quella della mano invisibile smithiana e del liberistico laissez-faire. Oggi io credo che di fronte alla retorica di un'economia libera e svincolata dalla politica non possiamo che farci forti degli insegnamenti di De Cecco, demitizzando la potenza di un'economia che finge di non essere un'economia politica e dimostrando al contrario che l'economia è politica e agisce tramite precisi dispositivi di disciplinamento, volte a creare un ordine che Saskia Sassen ha da ultimo definito quello delle formazioni predatorie. Lascio e passo subito la parola ai nostri relatori. Primo Giorgio Fodor, che ha insegnato presso la Facoltà di Economia di Modena, ha insegnato politica economica anche presso la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento. Poi Mauro Campus, che insegna al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze e ha fondato con Marcello De Cecco e altri il programma di storia orale della politica estera italiana presso l'Enciclopedia Italiana Treccani. E infine il nostro curatore, appunto Alfredo Giglio Bianco, scusate, che è storico ed economista, che dirige la divisione storica economica e l'archivio storico della Banca d'Italia. Grazie. Buonasera, mi fa molto piacere essere qui. Uno, perché la Fondazione Basso, io ero amico di Carlo Basso e sono amico delle figlie. E due, perché si parla di Marcello De Cecco, che è una persona importante che ho sempre stimato molto. Io sono qui per un solo motivo, perché Marcello mi ha citato nella prefazione, alla seconda edizione italiana, mi ha ringraziato senza dire perché mi ringraziava. Mi ha ringraziato semplicemente perché avevo scritto una lettera correggendo delle sue citazioni sbagliate, nient'altro. Però visto che Alfredo Giglio Bianco mi ha detto di venire, sono venuto con molto piacere. Allora, io parlerò prima un po' di Marcello e questo libro, poi parlerò del libro e poi parlerò dell'edizione del libro. Allora, Marcello ha scritto un libro di storia finanziaria in un momento che nessuno degli economisti non si occupavano di storia finanziaria, e gli economisti che andavano a Cambridge si occupavano di teoria del valore, la maggior parte, anche quelli che si occupavano di altre cose come Brusco, per esempio, che poi ha sviluppato, si è occupato di economia industriale eccetera, insegnava a Walras e si occupava di problemi di storia del pensiero. Anche persone che apparentemente non si occupavano di storia del pensiero, che erano a Cambridge, come Michele Salvati o Salvatore Biasco, seguivano con interesse una serie di questi dibattiti. Marcello si era occupato di storia del pensiero. Aveva scritto un saggio su Dmitriev, però poi invece scrive questo libro, che è una cosa strana, nel senso nel clima economico degli economisti giovani italiani in quel periodo. Un libro che poi lui aveva fretta di pubblicare per motivi accademici, cioè Alfredo Giglio Bianco mi ha fatto vedere, mi ha dato una copia del suo carteggio con La Terza, che è quello che ha pubblicato la prima edizione, e dice: vorrei anche riesprimerle il mio vivissimo desiderio, motivato dagli squallidi motivi concorsuali che lei sa, di vedere il libro pubblicato entro la fine di gennaio. Paradossalmente io ricordo una conversazione, sono quasi sicuro, con Mario Nutti nel King's College, nei Giardini, nei quali Mario Nutti era preoccupato dicendo: questo libro danneggerà Marcello nei concorsi, perché non era un tema, non era un approccio, un tema che potesse servire ai commissari, potesse impressionare positivamente ai commissari. Questo libro è un libro bellissimo, e Marcello si è occupato di questo libro, lui lo dice, perché vedeva che si sta avvicinando alla fine del sistema Bretton Woods, si è incominciato a interessare a questo dopo la svalutazione della sterlina nell'autunno del 67. E devo dire che anche alcune persone che l'hanno letto prima del crollo del sistema di Bretton Woods, per esempio c'è una lettera di Salin, che era un economista tedesco che stava in Svizzera, una lettera alla Terza, lui dice: questo libro dovrebbe essere tradotto in uno dei linguaggi del mondo, cioè inglese, francese o tedesco, voleva dire, perché questo è un tema che, visto i problemi attuali e quelli che ci saranno in futuro, questo è un approccio e un tema che interesserà. Perciò Marcello ha affrontato questo problema spinto da problemi attuali, e lui scrive in una delle prefazioni che è un economista innocente di storia, cioè lui è consapevole che stava occupandosi di cose che forse richiedevano un approccio diverso, un background diverso dal suo. Invece ha fatto questo libro che è bellissimo. Lui in Inghilterra era vicino agli economisti italiani che erano allievi di Silo Slabini. In Inghilterra c'erano vari gruppi di persone, da Silo Slabini andavano a Cambridge, dalla Cattolica erano divisi in due gruppi, quelli che erano più vicini a Lombardini e Quadrocurzio andavano a Cambridge, quelli invece che facevano interessati alla politica economica andavano a Oxford, era un legame con un college cattolico di Oxford attraverso Ursula Hicks, e allora loro non dovevano pagare l'alloggio e il vitto, questo per alcuni era una cosa importante. La persona che era servito per questo tramite, una persona a cui non farò il nome, ma che è diventato immortale nell'Accademia Italiana per una sua battuta sui concorsi, perché lui ha detto una volta che lui non leggeva i titoli per non farsi influenzare. Tra parentesi, gli amici che lui ha fatto a Cambridge, alcuni sono andati con lui a Siena a fare la nuova facoltà, e alcuni hanno abbandonato Siena per andare a Modena, cosa che Marcello ha visto un po' come un tradimento in un certo momento. Erano momenti di grande espansione dell'università, si creavano università nuove dappertutto e persone giovani potevano lavorare senza nessuna persona di un'età, di una generazione diversa, e questo ha consentito una grande libertà accademica in certi posti. Le persone che erano a Cambridge in quel periodo erano, da un lato c'era Bruno Miconi, Mario Nuti, poi c'erano gli allievi di Silos che erano Salvati, Brusco, Biasco, Vianello, c'era molta gente che poi ha fatto carriera e che sono stati importanti. Bene, questo è un libro apparentemente sul gold standard, è un libro in buona parte sull'Inghilterra. Marcello aveva un rapporto complicato con l'Inghilterra, perché da un lato l'ammirava e dall'altro lato la guardava con gli occhi scettici di uno che viene da Lanciano, che è un posto strano. Vi racconto due episodi. Si favoleggiava a Cambridge che Marcello fosse andato a Harrods e chiesto lo sconto, e la cosa incredibile è che l'avesse ottenuto, e questo credo che spiega un po' il suo atteggiamento di non lasciarsi influenzare da istituzioni importanti che potevano incuotere timore. Lanciano, un giorno Marcello arriva con una gigantesca Jaguar bianca vecchia, mi chiedeva: ma cosa hai fatto, compri una macchina, un sacco di spese? Dice: ma a mia mamma le chiedono sempre a Lanciano cosa fa Marcello, e lei dice che studio, che faccio ricerca, e dico: ah, oh, sì, ho capito. Cioè, poi ho comprato questa macchina, ho parcheggiato in centro, l'hanno vista tutti, nessuno chiede più a mia mamma cosa faccio. Un tema che tocca Giglio Bianco nella sua introduzione è se Marcello era nazionalista. Io credo che lui sicuramente amava Lanciano e sicuramente amava l'Italia, ed era interessato, per esempio quando è andato in Argentina, lui è rimasto molto colpito dal fatto che in Argentina ci fossero stati direttori della Banca Centrale e presidente della Banca Centrale con nomi italiani. Diceva: negli Stati Uniti questo non è successo. perciò teneva sempre presente questa cosa. Gli piaceva l'Argentina, faceva ricordare l'Italia agli anni 50, e in questo lui era in contrasto con un amico mio e suo che si chiama Arturo Connell, il quale sosteneva che l'Argentina non era il passato dell'Italia, era il futuro dell'Italia. E dopo la ascesa di Berlusconi, Marcello, che non era d'accordo con questa teoria, ha incominciato ad avere dei dubbi. Questa è una cosa che mi ha scritto O'Connell recentemente. E naturalmente in Argentina è andato a Berisategui, che è un posto nella provincia di Buenos Aires dove erano arrivati agricoltori di Lanciano, e è andato lì a parlare con loro e si è divertito molto. Allora, il nazionalismo. Secondo me il Marcello aveva, rispetto all'amore per il proprio paese, l'atteggiamento che hanno i padroni di cani verso i cani. Cioè il fatto che uno voglia molto bene un cane porta a guardare con simpatia altre persone che hanno dei cani che girano lì. E Marcello rispettava molto le persone che amavano il proprio paese e era un nazionalismo per niente aggressivo. Aveva un atteggiamento di uno che è radicato e che rispetta questa cosa. Beh, parliamo del libro. Il libro, apparentemente sul gold standard, in realtà, come dice lui in una delle introduzioni, è sull'evoluzione del sistema finanziario, in particolare l'evoluzione del sistema finanziario inglese, non britannico. Lui era molto consapevole delle differenze tra il sistema finanziario inglese e quello scozzese. In Scozia c'erano banconote da una sterlina, in Inghilterra le banconote, eccetto nel periodo delle guerre napoleoniche, le banconote, il taglio minimo era di 5 sterline. Questo è importante perché c'era uno stipendio di uno che entrava in banca, primo stipendio erano 20 sterline l'anno, perciò una banconota di 5 sterline, la maggior parte delle persone non aveva mai visto una banconota in Inghilterra, non l'aveva neanche mai usata. E anche il sistema bancario scozzese era diverso da quello inglese. E lui se la prende con il Canley Report, che è un report importante su come si pensava che funzionasse il gold standard, basato sostanzialmente sulla teoria di Hume, no? Hume scrive: quando gli economisti vogliono rifare quello che Newton ha fatto per l'astronomia, trovare le leggi che governano certi aspetti dell'economia, e lui pensava che ci fosse una legge che riequilibrasse i bilanci dei pagamenti senza bisogno di interventi del principe, senza bisogno di controllare niente, che c'era un meccanismo naturale. E Marcello, quando si mette a studiare il gold standard, forse già prima aveva questa idea, sicuramente aveva già prima, era più vicino invece all'idea di Keynes, che il gold standard era come un'orchestra con un direttore e il direttore era la Banca d'Inghilterra, cioè non era un sistema multipolare. Dovete anche ricordare che in questo periodo c'era la guerra del Vietnam, c'era il 68, c'erano tutta una serie di cose importanti, e c'era in discussione il problema dell'egemonia degli Stati Uniti, cioè è il tema diffuso in giornali, riviste, poi cristallizzato bene nel libro di Kindreberger di qualche anno dopo, sulla grande crisi. Il problema era questo: è meglio avere un egemone, il mondo è più tranquillo, c'è più stabilità con un paese egemone, o è meglio avere un mondo multipolare? Allora, l'idea di fondo era questa: c'è stata prosperità nel gold standard, che c'era un paese egemone che era l'Inghilterra, c'è stata prosperità sotto l'inizio, nel periodo di Bretton Woods, che c'è un paese che impone le regole, che sono gli Stati Uniti, sono stati momenti di disastro, che era il periodo tra le due guerre, che tutti lottavano per l'egemonia, e ci stiamo avvicinando, si capiva, verso la fine del 69, a un periodo di caos. Secondo gli americani questo pericolo era causato dalla riemergenza della Francia, Germania e Giappone, secondo altre scuole invece un mondo multipolare era una cosa buona. Era già uscito un saggio importante di Lindert su Key Currencies and Gold, nel quale lui dimostrava che nel periodo del gold standard altri paesi erano stati molto importanti e che l'Inghilterra, l'egemonia, la preponderanza dell'Inghilterra è stata molto meno forte di quello che si pensava nella ricostruzione del gold standard. E Marcello cita questo libro. Allora, a Marcello interessa capire non solo il ruolo dell'Inghilterra, ma come il ruolo dell'Inghilterra viene lentamente eroso dall'emergenza prima della Francia e poi della Germania. Allora, questo è uno dei grandi temi. L'altro tema è come l'egemonia della Banca d'Inghilterra viene erosa dallo sviluppo del joint stock banks, cioè le banche di deposito, che in Inghilterra, che è una cosa stranissima rispetto agli altri paesi, hanno avuto persino fino al Macmillan Report dell'inizio degli anni 30 queste grandi banche di deposito hanno un rapporto conflittuale con la Banca d'Inghilterra e non trattavano direttamente con la Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra aveva tentato di soffocare lo sviluppo di queste banche già diciamo tra il 1825 e 30, tentando di imporre un'interpretazione molto restrittiva alle leggi che c'erano allora di chi poteva fare il banchiere. E queste banche si erano sviluppate in modo diverso dalle vecchie banche di emissione, cioè non facevano soldi emettendo banconote, facevano soldi accettando depositi e imprestando. E lo sviluppo di queste banche, che poi c'è stato l'amalgamation movement, che diventavano sempre più grandi, erodeva il potere della Banca d'Inghilterra, che rimaneva una banca privata, e perciò il banking department della Banca d'Inghilterra doveva fare profitti e era in concorrenza in parte con queste banche commerciali. Allora Marcello è molto consapevole di questo, lo sottolinea e fa vedere questo doppio processo che sta minacciando il gold standard: da un lato che il peso dell'Inghilterra tende a diminuire, dall'altro lato che il peso della Banca d'Inghilterra dentro il sistema finanziario inglese tende a diminuire. E questi rivali non sono da poco. Queste joint stock banks fanno un comitato segreto per fare un gold pool, per accumulare loro oro anziché darlo alla Banca d'Inghilterra, e creano un centro finanziario molto importante, autonomo della Banca d'Inghilterra. Questo naturalmente prima della prima guerra mondiale. Ci sono due aspetti, c'è un aspetto sicuramente innovativo che ha dato molto fastidio a alcuni inglesi, che invece hanno fatto apprezzare il libro a altri inglesi, che è l'importanza dell'India, che era una cosa che era emersa in alcuni libri tedeschi del primo Novecento, che Marcello non conosceva, però lui l'ha scoperto autonomamente. E i quali dicevano: sì, l'Inghilterra c'ha questa cosa perché sfrutta l'India e sfrutta, gioca con le riserve indiane, trasforma le riserve indiane che vengono detenute in Inghilterra in modo tale da accumulare oro e rafforzare il ruolo di Londra. E lui dimostra come l'India, usando uno schema che viene da Volker Hilger, che lui non cita, lui cita invece Saul, che usa Volker Hilger, che ha un sistema, fa vedere il sistema mondiale delle saldi di compensazione tra grandi aree economiche, e fa vedere che l'Inghilterra ha un grande deficit, specialmente con gli Stati Uniti, ma anche con altre aree, e le colonie, in particolare l'India, hanno un surplus col resto del mondo, e che il surplus indiano e di queste colonie serve all'Inghilterra per coprire il proprio deficit. Allora, mi sembra di ricordare che Marcello avesse detto che questa parte era piaciuta molto a Sayers, che è una persona, che è un economista, uno storico, un economista storico economico, che era London School of Economics, che quando sono usciti i primi volumi delle opere Collected Works di Keynes ha scritto una frase strana, che però si capisce che secondo molti di noi il più bel libro di Keynes è quello sulla moneta indiana, che da un lato è dare un piccolo calcio alla teoria generale, dall'altro lato faceva vedere cosa che lui aveva capito, che Keynes aveva imparato molte cose studiando l'economia, il sistema monetario indiano. L'altra cosa è il ruolo degli Stati Uniti. Una volta, molti anni dopo aver pubblicato questo libro, Marcello, l'ho sentito dire: la storia del sistema finanziario internazionale è la storia di come accomodare il fatto che gli americani dal 1837 vanno sempre debiti. Sono quelle frasi di Marcello che è come un lampo in un mondo oscuro, che fanno vedere una cosa e poi sparisce. Il ruolo degli Stati Uniti ovviamente è importante in questo sistema e lui lo sottolinea. I libri che lui cita sono pochi e sono tutti bellissimi. C'è una strana eleganza in questo, nel senso che io mi sono chiesto come ha fatto a fare questa selezione, perché lui ci ha lavorato pochi mesi su questo libro, e secondo me è impossibile che una persona che lavora 7-8 mesi possa avere trovato così facilmente questi libri. La mia spiegazione è che lui aveva amici fidati che lo consigliavano su temi speciali, per esempio sull'India sicuramente c'era Bakci. Bakci era supervisore di Vianello, era Jesus College, era amico degli italiani e poi ha scritto delle storie importanti del sistema bancario indiano, e Marcello ringrazia Bakci e lo cita, perché sono troppo pochi i libri che lui cita, e non cita nessun libro un po' volgare, non cita per far vedere che ha citato molto. E questo è anche molto elegante, è l'opposto di molti storici adesso, che per citare qualunque cosa dicono citano 20 libri, non si capisce da dove hanno preso l'idea che citano, che pagina. Marcello citava male, nel senso che se guardate il libro ci sono capitoli in cui cita il libro e non cita la pagina, poi invece alcuni libri cita la pagina, e i suoi editor non l'hanno aiutato. C'è una frase di Giglio Bianco che mi è piaciuta, che dice dimmela. Sì. Cioè lui non rileggeva quello che aveva pubblicato, e questo sono sicuro. Nel senso che io una volta gli ho telefonato, a parte questa, la volta che gli ho scritto sulle citazioni, per esempio sul Cunliffe Report, lui ha detto che era pubblicato in una collezione di saggi di storia monetaria inglese, quando invece era stato pubblicato in un libro di Gregory su Selected Statutes and Documents di British Monetary History, che lui aveva visto chiaramente, aveva letto con cura, però non controllava le citazioni. E una volta gli telefono dice: guarda Marcello, che nel tuo libro di saggi di politica monetaria in pagina tale c'è una cosa che non si capisce, manca una riga. Allora lui preoccupato va e guarda e dice: sì, manca tutto un paragrafo. Ma noi, questo 10 anni dopo averlo scritto, cioè lui non rileggeva le cose che aveva pubblicato. E questo ci porterà al tema successivo, che è questa edizione. Parliamo già che sono arrivato, parliamo di questa edizione. Allora, per capire i problemi di questa edizione, vi leggerò i titoli delle 4 edizioni e di questa. La terza 71, Economia e Finanza Internazionale dal 90 al 14. Blackwell 74, Money and Empire, The International Gold Standard, 90-14. Einaudi 79, Moneta Impero, Il Sistema Finanziario Internazionale, non più Gold Standard. Binder 1984, The International Gold Standard, Money and Empire. Money and Empire è scritto piccolissimo, cioè hanno invertito il titolo. Come si chiama il libro? Abbiamo quattro titoli diversi. Allora, il povero Giglio Bianco, tutti siamo d'accordo che un libro per essere pubblicato deve avere un titolo e che un libro non può avere quattro titoli. Allora, siccome lui ci sono quattro titoli, lui deve trovare che titolo dare, e dà un quinto titolo, cioè Moneta e Impero, Economia e Finanza Internazionale dal 90 al 14. Questo titolo com'è rispetto agli altri quattro? Prende Moneta e Impero, che non era il titolo che doveva essere di questo libro, ma di un altro libro che Marcello aveva promesso alla Terza. Prendendo quest'altro titolo, poi a Marcello, che non ha pubblicato l'altro libro che voleva fare con la Terza, decide di metterlo in questo libro. Poi, quello che era l'International Gold Standard, pubblicato anche perché era nel periodo precedente la seconda edizione inglese, era venuta... era venuta quando Reagan voleva rifare il gold standard, e perciò il gold standard è grande e Moneta e Impero è piccolo. In italiano era Economia e Finanza Internazionale, cosa che lui riprende, sia nel titolo, lui prende nel 2016 la Economia e Finanza Internazionale della prima edizione, mentre la seconda edizione italiana era Il Sistema Finanziario Internazionale. Bene. Il problema perciò che esiste con questa edizione è che nessuna delle quattro edizioni pubblicate durante la vita di Marcello è esente di difetti. Normalmente cosa si fa? Si prende l'ultima edizione pubblicata con l'autore vivente. Questo è impossibile fare. Nel senso che nell'ultima edizione pubblicata ci sono errori. Anzi, l'ultima edizione pubblicata da alcuni punti di vista è peggio di quelle precedenti. Per esempio, l'errore che io avevo segnalato, che lui aveva incorporato nella seconda edizione italiana, invece viene ripetuto nella seconda edizione inglese. E gli errori di citazione che ci sono nelle edizioni precedenti ci sono nell'ultima edizione inglese. Questo obbliga al povero Alfredo a fare un'operazione che è molto simile a quella che facevano i filologi nella seconda metà dell'Ottocento, primi del Novecento, che si occupavano di testi del Medioevo, cioè ricostruire un testo in base a molte edizioni divergenti. E qui lui, senza saperlo, ha seguito il fondatore della filologia, che un signore si chiama Karl Lachmann, che è nato nella fine del Settecento, il quale ha fondato tutta una serie di principi e dice non facendo l'opposto di quello che si farebbe su un libro una versione di un autore vivente, cioè, non necessariamente la versione più recente è quella peggiore, bisogna consultare tutte le edizioni, tutta una serie di principi che non sto a ripetervi. C'è un libro di Timpanaro sulle origini, la genesi del metodo Lachmann, che fa vedere che non è lui da solo che ha fatto tutto, ma che si fonda sugli errori, cioè quali sono gli errori che quell'autore non poteva fare e che troviamo in questo testo. Lui, questo è uno degli elementi principali usati che lui propone, che è esattamente il sistema di Alfredo. Marcello non poteva fare questo errore. E con questo principio lui scarta, fa vedere con molta precisione i problemi con tutte e quattro le edizioni. Il nemico di Lachmann era un signore che si chiama Bédier, che era un francese, nato più o meno 50 anni dopo, molto nazionalista, che invece, dopo aver seguito il metodo di Lachmann, è arrivato a un metodo opposto. Bisogna trovare il testo buono e lavorare sul testo buono, bisogna decidere di tutti i testi qual è il migliore e lavorare su quello. E la critica che lui faceva a Lachmann è: tu stai pubblicando un libro che non è mai esistito, facendo questo copia e incolla di un pezzo e dell'altro, crei un testo che nessuno ha mai scritto. E questo crea dei problemi. Per esempio, vi do un esempio piccolo. Nell'ultima edizione inglese, che riproduce molto da vicino la prima edizione inglese, c'è scritto: "When reading the reports of British consuls", con la O, non con la U, cioè non consoli, ma consuls è il titolo del consolidato britannico pubblicato prima della prima guerra mondiale. Allora, è chiaro che quei titoli non scrivono rapporti, è chiaro che Marcello non poteva scrivere questo. Però questo lo troviamo mentre il testo italiano ci scrive di consoli, così che non c'è un errore. Allora, è chiaro che non si può accettare l'ultima edizione, cosa che infatti Giglio Bianco assolutamente non fa. E perciò lui scarta lavora e arriva a una ipotesi della quale è possibile, ma io ho più dubbi quelli che ha lui. La sua teoria è la seguente: Marcello ha scritto il libro in inglese ed è stato tradotto male in italiano, perché Marcello in italiano non avrebbe scritto certe frasi che ci sono in italiano e non avrebbe fatto certi errori che ci sono in italiano. Il mio dubbio è che anche in inglese ci sono errori che lui poteva scrivere, perciò io sono agnostico e ammiro ancora di più il suo lavoro, perché si è trovato, se lui potesse essere sicuro che il testo inglese è quello buono, il suo lavoro diventava molto semplice. Tra parentesi, c'è anche un'ottima idea in questa versione, che in questa edizione, che non c'è in nessun'altra edizione, che lui ha ripreso l'introduzione di Marcello a uno dei volumi pubblicati dalla collana della Banca d'Italia con la terza, sull'evoluzione del sistema monetario internazionale tra le due guerre, così che c'è un filo tra i due aspetti. Bene, questo lavoro, e dovete stare tranquilli che non è che Alfredo ha inventato un testo che non è mai esistito, come avete visto con nei titoli, lui ha preso i titoli che Marcello aveva scelto, li ha assemblati in un certo modo che secondo me è difendibile e che Marcello stesso aveva cambiato. I cambiamenti sono minuscoli, su dettagli che nessuno se ne accorgerebbe, solo leggendo con molta attenzione uno si accorge di piccolissimi cambiamenti, e c'è molto lavoro e è un'ottima idea di aver ristampato questo libro. Se credete nel mercato, il mercato crede in questo libro, la versione inglese della quale ho parlato così male costa più di 100 sterline su Abe Books di usato, perché è un libro ricercato e che non si trova facilmente. È un libro bellissimo, scritto da una persona particolarmente intelligente e brillante, con grande intuito, è una persona generosa e che sono molto contento che siamo qui a parlare di lui e di un'edizione che lo valuta al suo livello giusto. Grazie. Campus. Allora, grazie delle belle cose che sono state dette, ho trovato tutto straordinariamente interessante e anche da certi punti di vista anche divertente. Io non ho ovviamente la medesima confidenza, nel senso che non sono un collega di Marcello De Cecco, ho avuto un'esperienza di alunnato con lui. Quando iniziai a lavorare alla mia tesi di dottorato, il mio maestro, che era Ennio Di Nolfo, mi mandò da Marcello a parlare appunto degli argomenti della mia tesi di dottorato, che erano appunto di storia finanziaria internazionale. Fu per me, quindi io prima di andare a parlare con lui, lessi le sue cose fondamentali, tra cui Moneta e Impero. E devo ammettere che tutto il lavoro di cesello ecdotico di Alfredo è particolarmente utile, è particolarmente intelligente, ben fatto, fatto con passione. Del resto sappiamo che Alfredo è un filologo mancato, nel senso che non, ogni volta che lo incontro ha sotto braccio o Dante o Virgilio, quindi insomma, quello è il mestiere suo, diciamo. Però è vero anche che la lettura di quell'edizione del 1979 che io feci, per me fu una lettura folgorante. Fu una lettura folgorante perché io trovai in quella edizione in Audi del 1979 un libro purissimo di storia internazionale. Quello non è solo un libro di storia, e questo non è solo un libro di storia finanziaria, è un libro di storia del sistema internazionale. Perché è un libro di storia del sistema internazionale? Innanzitutto perché il centro dell'argomento di De Cecco è il Regno Unito, l'Inghilterra, meglio ancora, è quell'Inghilterra che era il centro di un sistema internazionale molto semplificato, molto scarnificato rispetto a quelli che abbiamo conosciuto dopo la Prima Guerra Mondiale e soprattutto all'epoca del conflitto bipolare, che aveva al suo centro un paese chiave, quindi una moneta chiave, quindi il motore della prima rivoluzione industriale. Il motore della prima rivoluzione industriale che in qualche modo è anche la base, la radice della seconda rivoluzione industriale di cui più propriamente si occupa il volume, almeno di un frangente di essa. Perché dico questo? Intanto perché c'è un esame, è vero, dell'Inghilterra, del sistema internazionale guidato e innervato dalle decisioni politiche del Regno Unito, e tuttavia è un libro che ci parla dei protagonisti del sistema internazionale della seconda rivoluzione industriale, e dunque è un libro che ci spiega come la partecipazione non solo della America del Nord tutta, perché poi c'è anche il Canada nella seconda rivoluzione industriale in parte almeno, partecipa all'espansione del volume del commercio internazionale. E qui c'è un trade-off che è chiarissimo nella narrazione di De Cecco, come appunto l'emersione di paesi centro dell'industrializzazione in qualche modo cambiano i rapporti di forza. Rapporti di forza significa, ci suggerisce, qualcosa che è particolarmente legato alla struttura del sistema internazionale. E questo è molto vero, ancora una volta, se si pensa a quando il libro è stato scritto. È stato già detto, Alfredo l'ha chiarito da par suo nell'introduzione, è un libro che risente moltissimo del clima culturale della fine degli anni 60, quindi della crisi del modello statunitense, almeno come guida egemonica del sistema internazionale nella parte occidentale, e dunque c'è un parallelismo. E anche qua devo dire, lo storico che non si occupa di contemporaneità non è uno storico, nel senso che la cosa che interessa allo storico e dovrebbe interessare all'economista in generale è sempre e soltanto la contemporaneità, quindi va benissimo che esista questo tipo di parallelismo, o di innesto meglio, perché non è un semplice parallelismo. Che cosa viene fuori? Viene fuori, secondo me, un libro che è un insieme di tre cose. Allora, innanzitutto penso che sì, scriverlo e averlo scritto in 6 mesi, 8 mesi, un anno sia un tempo sufficiente, nel senso che poi è lo sviluppo di un pensiero che andava avanti da tempo, nel senso che lui stesso mi raccontò quanto fu influenzato da un punto di vista dello sviluppo del suo, anche del suo modo di concepire il sistema finanziario internazionale, dai primi anni, dal primo incarico, quello dell'University of East Anglia, dove incontrò Alan Millward. Alan Millward, che è uno dei lettori della prima edizione di Moneta Impero, lo condizionò molto in termini di approccio al sistema internazionale. Alan era uno storico delle relazioni internazionali purissimo, anche se poi si è occupato delle conseguenze economiche anche della Blitzkrieg e così via, esattamente nel periodo in cui Marcello scriveva questo libro, e quindi c'è moltissimo l'insieme di queste cose, l'insieme di queste suggestioni. Quando lui diceva che era un povero economista a una platea di storici e uno storico a una platea di economisti, chiaramente era un vezzo esattamente come quello della Jaguar Bianca, nel senso che poi era una delle persone più colte che io abbia avuto la fortuna di incontrare, perché maneggiava tranquillamente tutti i classici latini, li citava a perfezione, conosceva Gibbon in maniera specchiata, quindi insomma erano dei vezzi che come tali contribuivano a costruire un personaggio a cui forse teneva anche abbastanza, quindi vanno benissimo così. Dunque, dicevo, il libro è costruito, probabilmente messo insieme in 6 mesi, ma è il portato di un'evoluzione molto significativa del suo pensiero e del suo lavoro, perché mette insieme 3 pezzi che secondo me stanno insieme ma si vede che non sono concepiti insieme, no? Nel senso che c'è una parte che spiega in maniera incredibile il sistema del monometallismo aureo, i cambi fissi, come in letteratura l'argomento è stato affrontato, eccetera, ed è ancora oggi in fotocopia il testo che viene adottato nei seminari di MA che si fanno al Center for European Studies di Harvard, quindi è del Center of European Studies di Harvard, la materia dei seminari di storia internazionale, storia del sistema internazionale del XIX secolo, li usa Mayer, li ha usati Mayer e così via. Poi ora c'è una nuova persona che si occupa di altro, quindi magari non ci sono più, però all'epoca c'era. E questa è la prima parte. La seconda parte, che è una storia che può essere in qualche modo oggi ripensata, immaginata dentro i post-colonial studies, e quindi i rapporti che l'Inghilterra e il Regno Unito intratteneva, rapporti di forza anche qui e rapporti tirannici in qualche misura nei confronti dell'impero, nei confronti delle colonie, e quindi come le risorse potevano essere drenate. E qui chiarissimamente è una storia della seconda rivoluzione industriale, poiché la seconda rivoluzione industriale è basata, come tutti noi sappiamo, su l'attrazione di materie prime, ferro, lana, cotone, che erano parte della prima rivoluzione industriale, vengono in qualche modo affiancate da nuove materie prime, per cui gli imperi sono necessari a drenare risorse verso il centro. E la terza parte è una parte che io trovo bellissima, cioè quella della crisi del 1914, dell'estate del 1914, per cui io sento in quella scrittura anche una grande partecipazione dell'autore al dramma della fine di un mondo, no? Ora, senza avventurarci in paralleli col mondo di ieri di Zweig, piuttosto che il tramonto dell'Occidente e così via, c'è chiarissimamente, nettissimamente, fin dalle prime righe, una sensazione fortissima di come quel momento sia un taglio netto delle radici dell'egemonia britannica, cioè come quella platea di attori che popolava il sistema internazionale, che lui ci descrive nelle prime 150 pagine grosso modo, a quel punto è libera dal nesso causale che era in qualche modo il legame che faceva sì che il Regno Unito potesse, o l'Inghilterra meglio, potesse in qualche modo guidare quella sorta di impero riserva che era poi alla fine la ragione, il motivo dell'egemonia britannica, del perdurare dell'egemonia britannica. Ciò che davvero quindi quel capitolo ci racconta è la decadenza del Regno Unito, la decadenza dell'Inghilterra, e qui mi riallaccio a quello che ha detto Fodor fino a poco fa, cioè quanto il rapporto di ambivalente stima e ammirazione nei confronti della Gran Bretagna, del Regno Unito e dell'Inghilterra giochi anche un ruolo nell'impostazione di quest'ultimo capitolo. l'Inghilterra era ed è l'unico paese al mondo probabilmente che declina da 130 anni, no? Nel senso che non ha da quell'altezza, da quel vertice nel quale su cui la narrazione è centrata, è un declino costante senza particolari scosse, no? Forse la scossa l'avremo tra qualche mese, tra qualche anno. Però ecco, quelle pagine, le pagine sulla crisi dell'estate del 1914, tra l'altro lui aveva una grande passione per le crisi economiche, no? C'è una sua stupenda recensione sul libro Questa volta non è come le altre, in cui spiega da par suo come invece la nostra volta era ed è stata ed è probabilmente come tante altre, ma solo diversa perché il precipitato è diverso. E dunque questo affrontare lo sbriciolarsi dei rapporti di forza all'interno dell'impero riserva nel periodo finale del sistema aureo, in qualche modo appunto descrive l'allargarsi del sistema internazionale. L'allargarsi del sistema internazionale, quindi la mancanza del centro, della chiave che l'Inghilterra aveva rappresentato negli ultimi 25 anni rispetto al 1914, è a modo suo di vedere, l'ha scritto anche in altre occasioni, una delle cause, se non una delle principali cause di tensione all'interno del sistema internazionale e dunque della Prima Guerra Mondiale. Ora, la platea delle cause della Prima Guerra Mondiale è talmente estesa, talmente enorme da non poter non rubricare anche le tensioni finanziarie all'interno di quelle che poi procedono all'apocalissi, che portano all'apocalissi della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, la sua lettura, la lettura dello sbriciolamento del perno di un sistema che era stato stabile, no? Di un sistema che era stato talmente stabile da non far concepire neanche alla letteratura un suo sbriciolamento. No? Il grande amore che lui aveva per tutta la letteratura dei Norman Angel, dei cent'anni di pace europea e così via, qui si sente, no? Si sente in maniera teleologica, perché lui sa che poi il sistema internazionale si sbriciola e si sfascia, ma ne dà una spiegazione in maniera particolarmente persuasiva, a mio modo di vedere. Per contestualizzare questo lavoro è necessario anche, secondo me, inquadrarlo nel dibattito sull'imperialismo dell'epoca in cui fu scritto. Il dibattito sull'imperialismo è un dibattito che appunto nasce sulla constatazione della crisi degli Stati Uniti come centro del sistema internazionale dell'epoca, della fine degli anni 60, un dibattito che acquisisce velocità e forza soprattutto in conseguenza dell'escalation in Vietnam e che pervade molto fortemente la cultura e la cultura di sinistra occidentale. Questo libro non ci partecipa, secondo me, nel senso che che l'indole culturale e politica anche di De Cecco è un'indole molto diversa da quella che orientava quel dibattito lì. Specialmente in Italia si scatenò un dibattito piuttosto acceso, piuttosto vivo sulla, ovviamente poi in circoli ristretti, ma insomma un dibattito abbastanza acceso sulla voce imperialismo di Giovanni Arrighi sull'enciclopedia Einaudi, voce che De Cecco conosceva molto bene e che riportava in qualche modo a più miti consigli, soprattutto nella sua ciclicità e nella ciclicità di un modello che poi effettivamente Arrighi ha riproposto in il lungo XX secolo nella Mosmitta a Pechino. Ecco, questa, secondo me, questo parallelismo, questa temperie di intellettuale nella quale il libro viene scritto, in qualche modo lo condiziona, ma poi non così profondamente, proprio perché la cultura politica intellettuale di De Cecco era una cultura molto più orientata verso un'analisi più pacata. Se devo trovare un modello in qualche modo di riferimento, mi viene in mente la trasformazione del sistema economico internazionale di Arthur Lewis, che in qualche modo anche se successiva e posteriore alla pubblicazione del volume, era conosciuto nel dibattito tra economisti, nel dibattito internazionale tra economisti. Quanto al contributo dunque che il libro complessivamente dà, secondo me è un contributo che va diviso in tre parti, che sono secondo me assolutamente autosufficienti. La prima, come dicevo, è una molto chiara, secondo me, descrizione del funzionamento e delle crisi del sistema di gold standard, e anche qui in maniera piana, in maniera aproblematica, non a tesi, vengono presentate le cicliche crisi interne del sistema che lo caratterizzavano come un sistema che doveva stare in piedi perché era il sistema imperiale, quindi necessariamente era quella la forza del sistema, lì si doveva stare perché l'Inghilterra voleva che stesse lì, ma questo contribuisce, oltre a spiegarci come funzionava e quali erano gli scopi e le ambizioni politiche del sistema, contribuisce a spiegarci molto bene che cosa, che era un sistema in qualche modo rapace, un sistema che era fondamentale per tenere unito l'impero, in qualche modo rapace nei confronti dell'impero. Però ci aiuta anche a capire quanto il sistema sia stato successivamente mitizzato, no? E quindi la mitizzazione soprattutto che viene riportata in auge tra il 1924 e il 1933, cioè a quel periodo che Mayer chiama la rifondazione dell'Europa borghese, e qui sì, De Cecco era fondamentalmente d'accordo su questo, sulla formazione anche qui restauratrice dell'ordine precedente alla Prima Guerra Mondiale, quindi il ritorno al mondo di ieri. Il secondo, che appunto è un valore molto molto importante a mio modo di vedere sulle questioni interne, sugli equilibri interni di potere all'impero britannico, e in terzo luogo appunto lo sfascio del sistema internazionale semplificato dell'Europa occidentale con la guida del Regno Unito. Perché è importante rileggerlo, è importante leggerlo, è importante avere a disposizione questo volume. Tra l'altro io sono consulente della casa editrice Einaudi e la tua richiesta non è mai arrivata sul mio tavolo, quindi, come dire, Andrea Bosco si è occupato da solo di dirti no, evidentemente. A me mi ha fatto una certa impressione, perché scusa, ti interrompo, no, certo. Diciamo, familiare extra. Io lavoro alla Banca d'Italia, no? Quando Marcello è morto ci siamo guardati in faccia, siccome c'era una nuova edizione che la banca avrebbe sostenuto economicamente, ma allora non avevo ancora fatto nessuna verifica sui testi, prima edizione, seconda edizione, così abbiamo fatto una telefonata, e loro hanno detto ci pensiamo, e dopo due giorni ci hanno risposto non siamo interessati, e io sono rimasto, come dire, ma cioè, non è arrivato al comitato editoriale un lavoro di questo genere da parte di un economista che era rimasto per tanti motivi, per tanti interventi, e Einaudi dicesse che non era interessato. Adesso scopro che non è mai arrivato al comitato editoriale. Vabbè, gli editori esistono per questo. Comunque, per chiudere, a proposito, me l'hai alzata, ma mi ricollego a quello che ha detto Giorgio fino a poco fa. E poi, quindi, scusami, maggior merito a Donzelli, che quando gli ho telefonato ha detto subito: ma certo, lo faccio indipendentemente da ogni sostegno. dicevo, mi riallaccio a quello che dicevi e chiudo con quello che dicevi te, cioè un'epoca in cui un economista, uno storico, un intellettuale raggiungeva non solo la fama, il prestigio nazionale e internazionale con un libro, come hai detto tu giustamente, un capolavoro. Perché succedevano cose di questo tipo? Intanto perché generalmente l'università era diversa, quindi non era necessario produrre dei titoli come chili di patate, no? Quindi in tutta la vita De Cecco ha contribuito, ha partecipato in maniera straordinaria al dibattito pubblico, al discorso pubblico nazionale e internazionale. Ripeto, il libro è un libro che è conosciuto anche con tutti i suoi difetti in mezzo mondo, almeno nella piccola comunità che si occupa di queste cose, perché poi insomma siamo quattro gatti, diciamolo pure. Eppure, ecco, quello che racconta, la storia che racconta, anche la storia di un intellettuale che ha contribuito a costruire il discorso pubblico e a chiarire degli aspetti fondamentali del sistema finanziario internazionale, del sistema internazionale tout court, mi verrebbe di dire ancora una volta, con un volume. Oggi questa cosa sarebbe impossibile, perché con un volume non si vince neanche un concorso da ricercatore a tempo determinato, quindi non... Esatto, quindi voglio dire, questo è, a mio modo di vedere, è una perdita di qualità, nel senso che indipendentemente dai tempi di scrittura può darsi davvero che sia stato scritto in maniera molto rapida e veloce, e tuttavia è il distillato di una serie di interessi, di una serie di aperture culturali molto, molto innovative e molto antivedenti rispetto a quando è stato scritto, perché effettivamente è un libro che ha 46 anni, 47 anni, quindi rispetto alla qualità del dibattito pubblico, del discorso pubblico italiano, della storia economica italiana, non parliamo della storia delle relazioni internazionali italiana dell'epoca, che era una cosa praticamente inesistente, era storia diplomatica. Beh, è una cosa che lo porta avanti e lo attualizza in maniera incredibile, e per questo davvero lo rende un classico, che poi è appunto la chiave interpretativa intorno a cui gira la introduzione di Alfredo, a cui cedo la parola. Allora facciamo così: io, siccome abbiamo fatto un po' tardi, vorrei essere molto breve e dire soltanto, diciamo, qualcosa intorno a una parola, cioè strutturalismo. Ho visto che nessuno, diciamo, né Giorgio né, però tu hai detto la parola struttura dell'economia internazionale, quindi mi soffermo solo un momento su questo movimento filosofico, del quale io mi sono convinto che Marcello De Cecco era un esponente, anche se può darsi che lui non lo sapesse, non voglio perché ritengo che capire, adesso ve lo dirò proprio in due parole, perché io non capire, diciamo, l'essenza strutturalista di questo libro sia importante per capirlo appieno. Quando mi sono messo a studiare questo libro per fare la nuova edizione, non sapevo neanche che cosa fosse lo strutturalismo, ma mi ha messo su questa pista un economista, Punzo, un economista di Siena che è stato un allievo di De Cecco. E quindi, diciamo, ho provato a ragionare su questo aspetto del pensiero di De Cecco. E in sintesi si tratta di questo: il più grande strutturalista di tutti i tempi, che non era un filosofo, è forse stato Mendeleev, che era un chimico russo e l'inventore della tavola periodica degli elementi. Ovviamente neanche lui ha inventato questa cosa, diciamo, è completamente ex novo, cioè ci sono stati dei precursori su cui lui, che lo hanno ispirato nel suo lavoro, che erano già su questa pista. Comunque, il succo di tutto il ragionamento è questo: noi abbiamo l'impressione, guardando il sistema monetario internazionale, che ci sia un piano su cui tutti i paesi, su diciamo, in condizioni di parità partecipano e concorrono al gioco economico, sono in concorrenza l'uno con l'altro, vinca il migliore. Invece Marcello fa vedere che c'è una struttura, cioè al di sotto di questo piano apparentemente uguale per tutti ci sono dei rapporti di forza. Per esempio, che l'India è costretta a comprare le merci inglesi perché la potenza imperialista inglese le dice: tu devi comprare queste merci anche se non sono competitive rispetto alle merci tedesche e americane. Adesso guardiamo che il lavoro che fa Mendeleev, il chimico. Ci sono degli atomi, giusto? Ma finché non si capisce appieno che la diversità di questi atomi, e cioè la loro valenza diversa, che dipende dal numero di elettroni che girano nella corteccia esterna, no? Forse ricordate, diciamo, dal corso di chimica, che il numero di elettroni che girano nella corteccia esterna di un atomo determina la sua valenza, cioè il tipo di combinazioni chimiche che questo atomo può fare. Perciò un atomo può essere più leggero o più pesante, ma avere la stessa valenza, cioè comportarsi in un modo simile a un altro atomo. Quindi si delinea in questo, diciamo, in questo ragionamento fantasticamente interessante di Mendeleev una struttura del sistema atomico, cioè ci sono categorie di atomi che hanno certe proprietà perché queste proprietà sono inscritte dentro la loro natura. Quindi l'apparente, chiamiamola così, uguaglianza degli atomi che rendeva fragile, cioè nel senso non perfettamente euristica, le teorie atomiche antiche di Lucrezio, per esempio, che non poteva immaginare la differenza intrinseca fra questi atomi, vengono finalmente spiegate da Mendeleev, che costruisce la tavola e mette quindi in verticale sulla stessa colonna quegli atomi, come i gas nobili, per esempio, che hanno le stesse caratteristiche chimiche, e quindi scopre questa struttura. Così ugualmente ci sono degli economisti, degli storici che riescono a interpretare le, diciamo, le travi profonde che tengono in piedi un sistema economico, un sistema politico. E Marcello era uno di questi, cioè non soltanto nell'interpretare il gold standard, e vi ho fatto l'esempio dell'India, ma ragionando sulle colonne dei giornali, di Repubblica o anche parlandoci insieme, lui aveva questo genio per capire i rapporti di forza sottostanti ai vari avvenimenti politici e cogliere da questi rapporti di forza sottostanti quelli che potevano essere gli sviluppi futuri. E per questo lo si stava a ascoltare con grande attenzione, con grande passione, perché aveva questa luce, questa forza di penetrazione, cioè sembrava che avesse i raggi X e che perciò al di sotto di una forma fosse in grado di cogliere quello che a prima vista non si vedeva. Perciò, diciamo, a me mi ha insegnato la lettura approfondita di questo libro, mi ha insegnato qualche cosa di questo metodo, e spero che chi lo legge, diciamo, abbia un po' lo stesso risultato. Ho finito.